grosso smeraldo. Lasciatemi, vi prego. Che significa questo? Mi volete spiegare? Che avete visto? Dunque niente di grave, una scappata, andiamo! Restate! E poi via, chi ti la volge? Oh, yeah. siamo fuggiti qui per nasconderlo. Thank you.

confischio, che vale niente, ora dimentica, qui tutto tace. Volevo darti. No, no, che subito, non esaltarti. Io mi illudevo in una sera di soffocare la cameriera. Non mi lasciassi così fischiata che la vita l'avrei donata. Guarda, non vedi laggiù qualcuno. Ma no, pareggi, non c'è nessuno. Di proseguire più non va a rischio. Ahimè, non senti. Che cosa? Decisamente vittima sei dei nobilissimi consigli miei. E se ciò fosse? Non lo potrei. Bisogna vincersi. Ma vorrei frugare un piatto. Questa placida oasi segreta, gli amanti tubano fuori del mondo, lontana Nizza, Nizza là in fondo. La solitudine vedi è completa, in questa placida oasi segreta, gli amanti tubano. Fuori del mondo, fuori del mondo. No, non mi inganno, laggiù c'è un uomo. Lo riconosco, è il maggiordomo. Desidera che avverta la signora. Le direte soltanto così, un amico e un'amica di Parigi l'aspettano qui. Hai fatto male, io non sono sua amica. Che cosa sei? Lo vedrai prima di sera. Quali stolte intenzioni ti passan per la testa? Alla fine mai seccata troppe, troppe. Non mi sono rivelata, provando le illusioni, sono stanca di tutto. Quali sono i tuoi sogni? I miei sogni che ti porto, che ti porto. Che chiuda l'amor vostro in una teatro di Nizza, ier sera decretò che Lisette non una stoffa per la gloria. E perciò io che vedo e capisco, ve la restituisco. L'artista d'una sera tornerà cameriera. Sarò quella d'allora se volete, ma certo, finalmente. È una donna felice, lo vedete. Torna l'anima antica a palpitare. Anche voi come lei, ma da dovrete se non oggi abbandonare una illusione che credete vita. Facete! È mio dovere, ho avuto questo incarico e lo compio. Da chi? Da chi vi aspetta sa dei vostri imbarazzi ed è pronto a salvarvi in ogni modo. Non più. Mi basta, ho detto tutto. Addio per sempre. Andate. Parto, con certa gente non ho più a che fare. Ne son felice. Solo una preghiera. Vede pure, ascolta. Permettete, signora. A che ora sei libera stasera? Alle 10. Ti aspetto. Mi dia da fare subito, chissà quanto, senza di me, chi sarà senza di me. Davvero tu rimpianta. Nasci in un precipizio, ma la fortuna. Ora immediatamente vedrà, rimedierò. Thank you. perché? Ah, chi sei che hai fatto? Sono Oh, 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 L'amor trovo. Thank you.

Stay there.